Quindi cominciamo. Ok, vi siete rifocillati, siete? Ok, noi adesso iniziamo una intensa e lunga, due ore per forza di cose, carrellata. Magari proviamo a fare una piccola pausa di 5 minuti a metà. Sui musei che io chiamo sensibili, proprio perché per me è la parola, diciamo, che mi piace portare avanti da anni, perché credo che sia la più idonea a descrivere la museologia che mi piace, che spererei fosse bandiera di tutti i portatori sani di mondi museologici. Vedremo perché questo aggettivo lo trovo particolarmente indicato. Allora, so che oggi Antonio vi ha fatto un po' un'introduzione sulla definizione di museo che è stata approvata a Praga e che quindi avete imparato, saputo, riconosciuto che le definizioni negli anni sono molto cambiate e che si è molto dibattuto prima di arrivare a questa definizione accettata da tutti a Praga, più o meno da tutti, ci sono ancora dei contestatori. Devo dire che io stessa, diciamo, che ho salutato con molta felicità questa definizione 3 anni fa, adesso comincia a starmi un po' stretta. Però è una definizione, diciamo, perché l'ICOM ogni 8 anni sente la necessità di ridefinire il vocabolo museo, non per dare una prigione dei confini prestabiliti a questa parola così importante e mutevole, ma proprio per, diciamo, almeno avere un perimetro in cui ci si può muovere, perché sennò museo è tutto. Abbiamo visto che il museo viene, la parola museo viene ormai acquisita anche a livello commerciale, da c'è una marca di vestiti che si chiama Museum, c'è il Balloon Museum, è un museo, non è un museo, ci sono forme, insomma, museo è sempre stata una parola altisonante nella società occidentale, che però va rimbalzata, ridefinita, rinegoziata, e per la prima volta appunto è successa questa baraonda che non ha frutto di litigi durati anni, che poi ha portato a questa definizione, che di fatto è una definizione molto lasca. È un po' tutto, ma non dico il contrario di tutto, però è un perimetro molto vasto. Che cosa impariamo da questa definizione? Che al museo si sta chiedendo tantissimo. Il perimetro è veramente enorme. Prima, nella vecchissima definizione, i musei erano solo aperti al pubblico, per esempio. Adesso non basta più. I musei devono essere accessibili e inclusivi. Altre due parole che sono campi minati. Promuovono la diversità, la sostenibilità. Sembra un mondo meraviglioso quello dei musei, no? Politicamente aperto, democratico. Vedremo quanto questo è vero e quanto questo sia possibile. E poi la novità vera è questa partecipazione della comunità, che è rivoluzionaria, a partire dalla Convenzione di Faro. Non so se ne avete parlato, ma la incontreremo adesso strada facendo. Perché la partecipazione delle comunità? Il museo tradizionalmente in Occidente è stato sempre vissuto come il luogo dove qualcuno, un esperto, dall'alto ti insegna qualcosa. Quindi degli specialisti operano la didattica. Didattica che vuol dire? Che io didasco, cioè io che sono espertissima perché ho studiato, perché ho esperienze e competenze, trasferisco a un voi generico di gente che sa meno di me le conoscenze. Adesso invece si parla di condivisione di conoscenza ed entra anche la nuova parola educazione, che è molto diversa dalla didattica. Nel mondo anglosassone education è la parola usata da sempre tradizionalmente, la parola didattica la usiamo noi italiani, perché siamo, diciamo, portatori di questa pedagogia della trasmissione dall'esperto a chi ne sa di meno. mentre educazione è proprio un trarre fuori, un crescere insieme, parola più democratica, più inclusiva e più partecipata. È chiaro che, penso che ne abbiate parlato a dismisura con Antonio, in questa epoca in cui la condivisione delle conoscenze sta qui, quindi nel web, e c'è una rete orizzontale di creazione delle conoscenze, ovviamente il museo che ci insegna tutto ci sta stretti. Quindi è quasi naturale che il museo, che è sempre una, come dire, un'antenna, un sensore di quello che accade nella storia, nella società, abbraccia questa nuova forma di creazione della conoscenza, di user content creation, di moltiplicazione della conoscenza, di pluralità di informazioni. Comunque, noi andiamo avanti. Allora, perché io ho scelto di aprire con questa signora, che è una signora che si trovava nel 66 a Tel Aviv e guardava una mostra di Picasso, affinché voi ce l'abbiate sempre in testa questa signora e che guidi le vostre progettualità culturali per tutta la vita. Non aggiungo altro. Quindi, dicevamo, si è passati dal museo collection oriented, era il museo tradizionalmente che custodiva collezioni che erano considerate il patrimonio della memoria collettiva, della nostra storia, della nostra identità, al museo che mette al centro la persona, l'essere umano, la comunità, proprio perché ricordatevi che il museo va di pari passo a quello che viviamo, alla nostra vita on life quotidiana. Allora, dicevamo, questa prima parte la dedicherò a... Per me museo sensibile vuol dire due cose. La prima vuol dire che se il museo deve avere veramente al centro l'essere umano, deve accoglierlo, l'essere umano, e quindi deve, come dire, abbattere il più possibile le barriere che convincono le persone a non entrare al museo. Secondo voi quali sono le principali barriere, quali sono i principali motivi per cui le persone non hanno voglia di entrare in un museo? Non si sentono all'altezza, pensano che non capiranno, oppure che... Quindi complesso di inferiorità. Magari il prezzo del biglietto. Il prezzo del biglietto. A volte anche barriere fisiche proprio. Barriere architettoniche. La fruizione troppo passiva, non coinvolgente. Ok, giusto. Allora, vediamo un po' di queste barriere. Vediamo che cosa il museo ha messo in atto nei suoi secoli di storia, affinché la parola museo sia ancora vissuta dai più come una parola negativa, no? Questa roba da museo, no? Ti fa subito pensare alla muffa, alla distanza, alla ieraticità di un professore anche troppo severo, un professore che punta il dito. Le barriere economiche sono una delle barriere che ci vengono in mente, il costo del biglietto. Quasi tutti i musei hanno un biglietto da pagare all'ingresso, in Inghilterra sempre meno. Il Macro Asilo è stato il primo museo a Roma ad aprire le porte gratuitamente, con una battaglia politica che ha fatto il direttore Giorgio De Finis affinché non ci fosse un costo d'ingresso, proprio perché sarebbe andato contro la politica di questa piazza aperta e democratica che invitava le persone a tornare più volte al giorno, più volte alla settimana. Sarebbe stato ovviamente un suicidio, una strategicamente fallimentare. Eppure le barriere economiche, gli studi, le percentuali, le statistiche ci dicono che non sono affatto le prime barriere che impediscono alle persone di andare, di entrare in un museo. Innanzitutto perché le famiglie Noi stiamo parlando grosso modo di Europa, statistiche europee. Spendono i loro soldi per impiegare il tempo libero in vari modi, per andare a mangiare e bere fuori con le famiglie, per andare a fare sport, per andare a vedere un concerto, un teatro, e in più ci sono ormai moltissime occasioni in cui puoi andare al museo gratuitamente. Per esempio in Italia c'è la prima domenica gratuita. Molti musei il giorno del tuo compleanno ti fanno entrare gratis, come i parrucchieri che ti danno lo sconto, perché la logica comunque è l'allineamento al mondo del marketing, al mondo commerciale. E, ci sono musei che quasi tutti i musei fanno sconti per gli over 65, per i bambini, per gli insegnanti, per i giornalisti, per chi si occupa di storia dell'arte. Le inaugurazioni di tutte le mostre sono sempre aperte gratuite, ci sono giorni di festa in cui il museo è gratuito, ci sono le notti bianche, insomma, se proprio hai voglia di andare al museo e hai poche risorse economiche, puoi anche, come dire, districarti senza troppa fatica tra queste possibilità. Ci sono le barriere architettoniche, chiaramente sono tra le prime classiche che ci vengono in testa, soprattutto perché in Europa la maggior parte dei musei sorgono in edifici storici, monumentali, preesistenti, dove ci sono grandi scalinate, dove ci sono spazi piccoli, porte strette, assenza di bagni dedicati a persone con disabilità motorie. Quindi è difficile affrontarle, però non impossibile, nel senso che ormai i dispositivi per accogliere persone in carrozzella o con altre disabilità, diciamo, forse sono i primi che un museo riesce a mettere in atto con una progettualità fatta bene. Il Louvre adotta questo dispositivo, tra gli altri che adotta, che è molto carino, simpatico, si chiama Le Flaneuse. Sono delle sedie fatte a tre o a due sgabellini che ti puoi portare in giro per le sale con le ruote gommate che non rovinano il parquet meraviglioso del Louvre e che sono multifunzionali, perché ti puoi mettere lì a prendere appunti, ti puoi sedere davanti al tuo quadro preferito. Qual è il vantaggio di un dispositivo di questo genere? Innanzitutto che non è detto che lo usi necessariamente una persona con una disabilità, posso usarlo anche io se mi stanco. Quindi, come dire, non segrega le persone con disabilità, non le ghettizza, ma è un dispositivo per tutti, lo possono usare gli anziani, i bambini, le famiglie. Innesca cosa? La condivisione, perché non è una sedia solitaria, e questo è un aspetto molto importante nei musei, cioè creare la relazione tra le persone. Quindi tu puoi fare un'esperienza meravigliosa individuale, io amo andare da sola nei musei, però amo anche chiacchierare con persone che non conosco. E quindi un dispositivo così, ho visto al Louvre persone che si siedono insieme non conoscendosi e condividono questa stessa panchetta con le ruote. E poi ha un altro merito, prolunga la visita. Dato che se vogliamo essere musei sensibili, se vogliamo essere attivatori politici, se facciamo stare scomode le persone, il fallimento è ab initio. Quindi anche la politica deve essere scomoda intellettualmente, ma può essere comoda fisicamente. Ci sono barriere molto più insidiose e molto più sottili, trasparenti. Vi faccio questo esempio, vi racconto questo esempio. Qui siamo al Museo delle Civiltà, all'Eur. Quindi un museo che è ospitato in un palazzo chiaramente razionalista, fascista, con questi grandissimi saloni, un'architettura austera, severa e grandi spazi monumentali. Il Museo delle Civiltà, anche prima di essere Museo delle Civiltà, quindi era Pigorini, Arti e Tradizioni Popolari, Alto Medioevo, che adesso sono confluite nell'unico atomo divisibile e indivisibile del Museo delle Civiltà, in realtà sono stati sempre molto attenti all'inclusione, all'accessibilità e alla partecipazione. E tra i loro progetti ce n'è sempre stato uno, continua a esserci, sulle persone autistiche, che ogni anno vanno lì, fanno delle visite, dei laboratori, delle attività. Questa sala, che è il Salone Monumentale, era tradizionalmente attraversata da un tappeto rosso, una guida. Un anno l'hanno tolta, non so se per lavarla, se banalmente, sono arrivate le persone autistiche, panico. Si sono trovati totalmente disorientati, impauriti, non riuscivano ad attraversare la sala. C'è stato un blocco e hanno dovuto spostare tutte le attività al di qua della sala, perché hanno sofferto. Ora voi mi direte, ma quando progettiamo possiamo pensare, immaginare a tutte queste cose? Sì, nel senso che è chiaro che qui si tratta di prevedere l'imprevedibile, ma dobbiamo porci nella condizione di ascoltare quante più diversità possibili, e soprattutto chi progetta ha il dovere di studiare. Questo sempre, in tutti i campi, ma ormai la letteratura è molto vasta. Ascoltare le esperienze degli altri e introiettarle nella propria progettazione è fondamentale. Per cui, allora, quando si progetta un museo, si progetta un'esperienza umana, quella dei visitatori e anche quella dei non visitatori, anche quella va progettata. L'esperienza umana scappa da tutte le parti, cioè è una esperienza non misurabile, non parametrabile del tutto, però nostro dovere è fare del nostro meglio. Ci sono musei che adottano delle esperienze, delle pratiche piccole ma molto efficaci. Questa qui era nel 2023 al Centre Pompidou, che avete studiato, avete... Qualcuno che ha parlato anch'io. Ok, perfetto. Quindi ritorno al Pompidou, che adesso è chiuso per 5 anni lunghissimi. Però c'era questo semplice cartellone enorme vicino alla biglietteria dedicato alle persone daltoniche. Innanzitutto sempre un linguaggio accogliente, carezzevole e simpatico, che ti dice: ma tu lo sai che in Francia il 4% della popolazione è daltonica? Quindi 2 milioni e 700 mila persone. Già se sei daltonico dici: ah, non sono da solo, bene, già mi sento incluso in un vasto gruppo. Dice: guarda, questo è un quadro di Robert Delaunay. Se tu lo vedi in questo modo, sono i colori che il pittore ha deciso di offrire, no, allo sguardo delle persone. Se lo vedi in questo modo, potresti essere daltonico. Quindi, se vuoi fare un'esperienza a pieno con i colori che gli artisti, gli scultori, i pittori hanno deciso, no, che fossero i loro colori originali, vieni semplicemente al nostro desk, ti diamo degli occhiali per cui puoi vedere. Quindi, semplicissimo, un dispositivo gratuito che accoglie una determinata disabilità sensoriale. Qui siamo alla Tate Britain. L'anno scorso c'era una mostra meravigliosa sulle artiste pittrici che sono state cancellate dalla storia dell'arte. Ce n'è una a Roma a Palazzo Braschi, finisce tra poco, andatela a vedere perché è una mostra politicamente importantissima. Loro prima di entrare ti danno delle informazioni, ti dicono: innanzitutto ci saranno 200 oggetti, così tu, no, c'è sempre quella sensazione: ma quanto è lunga questa mostra, quante cose, mi sentirò schiacciata dalla quantità, sono troppo poche, non mi va di pagare il biglietto. 200 oggetti, I livelli di luce possono variare. Ci sono persone che si sentono fortemente disturbate dal buio, dalla troppa luce, così come dalla confusione. La Tate è un posto visitatissimo, dove il chiacchiericcio, come i Musei Vaticani, come gli Uffizi, no? Può disturbare persone che hanno bisogno di quiete. Allora loro ti danno delle cuffie, se vuoi, come i concerti, così tu ti puoi fare la tua visita con grande serenità. Ci sono altri dispositivi, come una guida con le stesse didascalie, ma stampate con un font molto più grande, di dimensioni grandi. Quindi tu te ne puoi andare in giro se hai difficoltà di visione. Oppure c'è una lente di ingrandimento, ci sono addirittura dei cartellini con dei disegni, delle infografiche, per cui se hai difficoltà nel comunicare e hai bisogno di chiedere dove è il bagno, dove è il bar, tu mostri questa, guardi un custode, gli fai vedere la tessera e lui ti indica il posto. Quindi, diciamo, questa è un'accoglienza, una piccola accoglienza prima di entrare a vedere la visita. Durante, nel corso del percorso, ci sono anche delle stanze che sono la quiet room. Quindi se tu ti senti, se tu hai delle forme di autismo, per esempio, che ti confondono tra la gente, ti dà disturbo la massa di gente, il rumore, ma anche l'enorme massa di opere. Ci sono persone che si sentono schiacciate, come si dice, overwhelmed, cioè sopraffatte, soverchiate da una quantità di bellezza, di storia, di informazioni, hanno bisogno di decomprimersi. C'è la quiet room, così come c'è la multi-faith and contemplation room. Anche qui ci sono delle persone le cui religioni impongono di pregare in certi orari. Ma io che faccio? Se vado in un museo che è talmente grande dove ci sto 5 ore, come la mettiamo? Che faccio? Vado in bagno a pregare? Non è proprio una soluzione gradevole. Quindi hanno inventato una multi-faith, quindi, come dire, nessuno può accusare nessuno, ma anche una contemplation, cioè io posso andare lì a coltivare la mia spiritualità dopo che ho visto tante opere. Le barriere cognitive, ne parlavamo prima, appunto, hanno a che fare con la comprensibilità. Allora, questa didascalia ve la leggo perché da lontano forse non vedete. Del Museo Archeologico di Agrigento, rispetto a questi vasetti, dice: pissi di corinzi a pareti convesse, stile bianco con disegni lineari, tardo corinzio primo. Brocchetta acroma di tipo rodio-cretese, tazzina monoansata acroma. Cosa mi porto a casa da queste didascalie? Il Comic Sans. Il Comic Sans, esatto. Allora, queste barriere hanno a che fare con l'assenza di informazioni, l'eccesso di informazioni, con informazioni eccessivamente tecniche. I musei archeologici sono i principi di questo blackout, di questo cortocircuito. Lo dico io che in origine fui archeologa. Io ho approcciato la museologia proprio perché mi stava stretto il linguaggio tecnico archeologico e sentivo di studiare solo per me, per i miei amici carissimi archeologi. Questo cortocircuito deriva dal fatto che le note di scavo, che sono giustamente tecniche, molto spesso vengono copiate e incollate nelle didascalie. Il diario di scavo viene incollato nei pannelli didattici. per cui si parla archeologese a persone che non gliene frega nulla che sia mononsata. Poi acroma, mi prendi in giro? Lo vedo che non ha del colore, è acroma, grazie. Cioè, come quando c'è una statuina e c'è scritto statuina fittile maschile acefala, ma io lo vedo, dimmi a cosa serviva, chi la maneggiava, cosa rappresentava, se le persone la toccavano, la costruivano, come, se ci mangiavano, ci bevevano, ci mettevano profumi, quello voglio sapere. Un museo archeologico è un museo che parla di persone, ci dividono secoli e millenni di storia, ma io voglio sapere come vivevano queste persone. C'è una frase bellissima secondo me, che è una frase, una di quelle che io considero frasi guida per la museologia, di Pomian, polacco, che dice: gli oggetti nei musei ci legano all'invisibile. Allora, io voglio conoscere l'invisibile, non me lo devi spiegare tutto perché io lo voglio anche immaginare, perché voglio mettere in moto la fantasia, ma così è davvero troppo. E questo è un altro mostro generato da robe del genere. Queste sono foto che ho fatto io, quindi sono reali, non sono create con l'intelligenza artificiale. Perché anche con la negligenza sei stata abusata? Sì, sì, sì. O i cartellini molto probabilmente ci sono da 20 anni. Sì, sono lì, non è cambiato nulla. No, quella è una foto antica, però non è cambiato nulla. Secondo me il parco archeologico perché è gestito da privati, il parco archeologico della valle perché è gestito da privati, ma il museo perché è comunale. Il museo ancora sta lì, esatto, fermo. Mostra di Shepherd Fairey, mostra di Banksy, qui a Roma, quindi mostre, diciamo, molto contemporanee, no? Molto attive politicamente, ma se io mi trovo davanti questa mole di informazioni, in piedi peraltro, a proposito di comode sedute, io decido di chiudere immediatamente la mia esperienza. Io sono la regina delle persone secchione, adoro leggere, adoro andare nei musei e apprendere, ma una cosa così è la più respingente che ci possa essere. Cosa avranno fatto qui? Avranno preso il testo del curatore del catalogo della mostra e l'hanno piazzata lì. Peccato che un libro è un'esperienza che puoi comodamente approcciare a casa tua sul tuo divano. Questa, la visita al museo, è un'esperienza sensomotoria. Ci si muove dentro al museo. E sono due linguaggi totalmente differenti. Piccolo escamotage di un piccolissimo museo, quello archeologico di Lipari, che trova questo modo intelligente. Dice: le didascalie rosse guidano una rapida visita del museo. Quindi tu sei arrivata a Lipari, c'hai 2 ore, c'hai il battello, ti vuoi fare il bagno a mare, leggiti le didascalie rosse, comunque avrai un grado di soddisfazione. Se vuoi approfondire, quelle nere sono notizie più ampie e dettagliate. Escamotage minuscolo, però gradevole, no? Ecco qua. Allora, io sono una collezionista di barzellette, vignette, meme, illustrazioni sui musei, perché secondo me nulla ci racconta meglio della percezione del pubblico. È un vero e proprio studio, e le illustrazioni che fanno ridere, legate alla percezione, alla difficoltà, ai cortocircuiti che ci spiegano, sono le più numerose. Piccola digressione proprio sull'accessibilità. Molto spesso siamo ovviamente nell'epoca della ipertecnologizzazione di tutto, i musei stanno accogliendo come imperativo categorico la multimedialità, l'interattività, l'innovazione, queste tre parolacce che io cancellerei, censurerei dal vocabolario della museologia, il digitale è considerato spesso una chiave di accessibilità per le persone. Qui non ve ne parlo, perché questa sarebbe un'altra lezione che affideremo ad Antonio, che finge di non sentire. Però vi faccio vedere quali mostri possono essere generati dall'iperdigitalizzazione. Questo è l'M9, che è un museo di Mestre, il museo del Novecento, cioè il museo che racconta la storia italiana del Novecento, costume e società e storia. Quindi intanto si è preso la responsabilità di raccontare l'universo mondo, un tema eccessivamente grande, ed era pensato per rigenerare culturalmente la città di Mestre. Sapete che è la terraferma di Venezia, dove le persone passano, vanno a dormire perché costa meno di alloggiare a Venezia, però Mestre non ha una vera e propria attrattiva. Quindi per 14 anni si dibatte, si progetta questo museo, che con una fondazione bancaria, col comune di Mestre, riesce a racimolare una cifra di 110 milioni di euro e viene lanciato come il museo più all'avanguardia della nazione, dove vengono usate le tecnologie, tutte le tecnologie esistenti al momento presente. Quindi in questo museo ci sono realtà aumentata, realtà virtuale, visori, teche olografiche, una gamification portata allo stremo, touchscreen, vabbè, è la base. C'è tutto quello che potete pensare di tecnologicamente avanzato. Non ha una collezione permanente, è un museo che ha avuto il merito di digitalizzare tutti gli archivi, la maggior parte degli archivi del Novecento italiani. Quindi come archivio è di un'importanza preziosa. Però il risultato è questo: un museo buio dove non c'è aria e non c'è luce, non ci sono vie di fuga, cioè tu ti senti veramente imprigionato quando entri lì dentro, dove l'effetto di overload, quindi di eccesso di competizione attentiva tra tutto quello che dovrai esperire, non solo guardare ma esperire, perché il museo ti chiama a interagire con la tecnologia, dove questa tecnologia tra l'altro non è trasparente ma è esibita, quindi a me non me ne frega niente di vedere schermi, di vedere dispositivi. La tecnologia per una buona progettazione deve essere trasparente, come insegna Studio Azzurro, per dirne una che da 40 anni opera con le tecnologie più all'avanguardia. Questo è il risultato. Innanzitutto, una delle regole della museologia è: quando entri in una stanza non devi cogliere tutto, perché ti viene, come dire, l'ansia da oddio, da dove parto, oddio, ancora devo vedere tutto. Devi creare delle quinte per un percorso che abbia anche un effetto di sorpresa. E insomma, qui vedete c'è questa freccia è proiettata, c'è il mapping, questi sono mapping. È un disastro. Figuratevi che dopo la presentazione e l'inaugurazione in pompa magna, che ha avuto un successo clamoroso, una comunicazione che è stata fatta con i fiocchi, il museo ha avuto un decremento di ingressi nei primi 6 mesi pari credo al 50%, cioè tantissimo, tanto che il biglietto, che era 25 euro, è stato portato a 18. Quindi attenzione all'uso delle tecnologie, cioè guardate qui, troppo. Andiamo ad altri tipi di barriere, le barriere culturali, le barriere che appartengono a tutte quelle culture che sono state marginalizzate, sottorappresentate, o le cui narrazioni sono state distorte. I musei, ormai credo che lo sapete con Maria Elena, sono nati per legittimare il potere dell'Occidente, la supremazia dell'Occidente, e tutti i musei, non solo quelli dichiaratamente etnografici, sono nati da collezioni che provengono da paesi oppressi. Come dire, non abbiamo chiesto il permesso a nessuno per appropriarci delle loro opere d'arte, e spesso non erano neanche opere d'arte, perché erano pezzi appartenenti a rituali sacrali, religiosi. Hanno finito per formare il nostro pensiero sul mondo, per legittimare appunto la nostra bianchezza, la nostra superiorità, la nostra supremazia culturale. Oggi il decolonialismo è uno dei grandi temi che da un decennio, grazie al cielo, i musei portano avanti, che vuol dire prima di tutto decolonizzare il nostro pensiero, vuol dire rimettere in discussione le dinamiche di potere, vuol dire rimettere in atto il dialogo con queste culture che sono esposte loro malgrado nei nostri musei, e creare ponti e soprattutto invitare le persone che sono, come dire, portatrici di questi manufatti a portare il proprio punto di vista, e quindi ospitare punti di vista sempre più plurali. La pluralità è sempre un grande antidoto, no? Per l'imposizione di un pensiero unico. C'è il grande tema della restituzione degli oggetti, della cancel culture, che viene ovviamente paventata dai più conservatori, però diciamo è un grande tema. Per dirne una, la Tate Britain, ogni corridoio quasi, si vede che il suo senso di colpa è veramente forte, espone questo cartello che dice: noi siamo consapevoli che la nostra collezione, che deriva dalla collezione del signor Tate, Henry Tate, è una collezione che nasce dal fatto che lui aveva una produzione di canna di zucchero, di canna da zucchero, che ha sfruttato il regime schiavile nell'Ottocento. Quando Henry Tate lavorava, la schiavitù era stata abolita, ma le pratiche di schiavitù sussistevano ancora, per cui dice: molti dei nostri oggetti sono qui, come dire, grazie e a causa del sangue di schiavi che vengono dal mondo dei Caraibi, dell'America Latina e dell'Africa. Questo noi adesso dobbiamo, come dire, dobbiamo lavorarci su. We are working to address these legacies through research, interpretation and dialogue. E dice: durante il percorso potrete trovare delle didascalie che parlano, che vi spiegano questo, e se volete approfondire andate sul nostro sito, dove c'è una sezione dedicata. Quindi loro dichiarano la loro colpa e dicono: ci stiamo lavorando. Quindi non cancel culture, ma teniamo questi oggetti per ridiscutere le nostre politiche. Altro tema che ovviamente, da cui si sono sentite escluse delle categorie di persone, quello del genere. Altro tema, ovviamente sono tutti temi di questi anni, urgenze di questi anni. Ancora Tate, Modern Tate Britain, ci sono addirittura la Britain, guardate il gadget, le visite guidate, alle 15 c'è la visita LGBTQIA+, quindi che rilegge la collezione, determinati pezzi della collezione in questa chiave. Le donne, che sono state sempre escluse dalle pratiche museali, e cioè questa era una bellissima, divertentissima mostra delle Guerrilla Girls, che sono delle attiviste femministe che si occupano proprio dell'esclusione del mondo femminile dal sistema dell'arte. Questo è uno dei manifesti più famosi, che dice: ma noi dobbiamo essere nude per entrare al Met, cioè al Met noi ci siamo entrate come modelle ritratte, ma non come artiste, e così via. Qual è un'altra barriera clamorosa? Il museo è il luogo del proibito, dove non puoi fotografare, non puoi toccare, non puoi parlare a voce alta, non puoi portare lo zaino, non puoi fumare, non puoi mangiare, non puoi portare il tuo animale preferito. Questi, molti di questi divieti, che sono semplicemente azioni di buonsenso, perché io non vado a mangiare l'hamburger davanti a Monet, tendenzialmente, no? Non mi viene in mente, sono tradotti dai musei con una infinità di severissime infografiche che atterriscono. Cioè, i detentori dei musei, i funzionari, hanno sempre avuto una paura e una sfiducia nei confronti delle persone che viene tradotta con dei divieti. Sto facendo un esempio precedente italiano, che non è solo il divieto, ma cosa è il problema di comunicazione di questo tipo di simbologia così aggressiva? Ma cosa è quando proprio il museo reagisce rendendo di fatto impossibile fare qualcosa? Per esempio la videogallery del Maxi, che è una delle aree che fanno parte, diciamo così, del foyer, cioè nella zona dove si può andare gratuitamente senza pagare il biglietto. Diciamo, adesso siamo arrivati un po' che è stata chiusa per permettere un allestimento del foyer che durerà fare un mese e mezzo e poi dopo riaprirà. Ma anche quando è aperta la videogallery, i nuovi gestori del museo hanno ritenuto intanto che proiettare il video in loop tutto il tempo dell'apertura lo trasformava in un potenziale giaciglio per i bambini, e quindi hanno ridotto la programmazione dicendo la videogallery. Oggi in videogallery alle 17 c'è questo film, uno lo guarda e poi chiude. Quindi siamo passati da un posto dove tu vai in qualsiasi momento della giornata a fruire qualcosa a un cinema che ha una programmazione non solo spettacolo. Ma poi anche quando era il passaggio precedente, era aperta per tutta la durata, inizialmente era buio per vedere il film, poi hanno cominciato ad accendere dei faretti che illuminano la gradinata, che è una gradinata molto comoda effettivamente, cioè viene da sdraiarsi lì e molti si sdraiano, non perché sono dei barconi che vogliono lì, ma perché vogliono riposarsi dopo due ore che camminano. Per Roma o per il Maxi? Esatto, per Roma, certo. Per il Maxi. Il Maxi è anche un safe haven di aria condizionata per quattro mesi l'anno, in cui Roma è una città ormai molto difficile da vivere per le temperature. Quindi quello è il riflesso, sì, della stessa cultura, cioè che rivela qual è la testa che concepisce la città ostile e la città difensiva. Il MoMA, questo è il MoMA. Cioè, questo non lo vedete bene, sono due gocce di sangue. Aspetta. E quello mi ricorda la Re Arvedo, cioè il coniglio che rischia di tagliarsi la mano se si appoggia sulle porte scorrevoli. Ah sì, è vero, perché viene disumanizzato, però c'è questa resa fiabesca che te lo fa accettare. Qui è fatto assoluto divieto di toccare le opere esposte, usare il flash per fotografare gli affreschi al Colosseo. L'inosservanza delle disposizioni è perseguibile ai sensi del decreto legge articolo. Ragazzi, ma vogliamo che questi musei siano luoghi accoglienti? Questi sono dei funzionari burocrati che prendono in mano situazioni che non dovrebbero prendere, dovrebbero stare dietro le loro scrivanie. Qui sarò severa io, però. Quindi scusami, se uno non vuole, perché questo è il buon senso, ma non tutti hanno buon senso, comunicare che una cosa è meglio che non si faccia, ma non perché ti punisco, perché crei un danno alla cosa. Come lo fai? In modo gentile. Non dico, cioè, dire ti verrà data quella multa perché la persona. Questo è un modo gentile. Allora, questa è una cosa che si usa molto nei paesi anglosassoni e in Spagna. Questo è un fiore di cardo Spinoza, che viene posizionato sulle opere dove non ti, sulle sedie, i mobili antichi dove non ti devi sedere. C'è bisogno di altro? No. Però comunque i cimi ci sono, cioè, cioè lo sposta e si sono tanti graffiti sul muro di questo, cioè non c'è dubbio, ma quello non lo eviti con i divieti, stai sicura? Cioè tu punta alle persone gentili, al modello delle persone gentili. Per esempio alla Bourse de Commerce a Parigi c'era quest'opera e c'è scritto: quest'opera è costituita da pareti di vetro, noi vi ringraziamo se voi siete attenti piuttosto che non toccare, che mettere dei cordoli, dei cordoni, dei dissuasori che interagiscono con l'opera. Ci sono tante opere di arte contemporanea o anche opere dell'Ottocento, del Settecento, archeologiche, dove se tu vuoi fare una foto fotografi il divieto e poi l'opera, e a parte la fotografia il tuo occhio viene distratto dal divieto. Questo non è possibile. Altri mostri generati. Questa era una mostra sul giocattolo a Palazzo Braschi. Allora, hanno fatto questa meravigliosa scalinata così col praticello, che poi tra l'altro il praticello con le bambole, cioè l'idea progettuale non si capiva. Però, cioè tu mi fai queste meravigliose... Le fai a forma di panca, quindi è un invito, non sedersi, non toccare, a una mostra che è dedicata ai bambini, per cui guardate le sue, queste mie nipoti. Poi ci sono due momenti normativi in conflitto, cioè il momento in cui l'arte viene concepito dicendo così magari i bambini si siedono, sì, è normativo perché tu stai creando una situazione che prevede un uso, e poi dopo un secondo soggetto che ha un'autorità decisionale che dice: ma chi ha fatto questa cosa? Diventa un esatto. Cioè, secondo me, qui è sempre, sono dei cortocircuiti di dialogo tra il progettista, che comunque ha attuato un'idea stupida, perché qui non puoi invitare i bambini a non prendere i giocattoli, a non toccarli. Sembra fatta apposta. Ma il prato veramente io non lo capisco, perché non è un parco, non inscenava un palazzo, era una scenografia totalmente in controsenso con il resto dell'allestimento. Poi arriva il soprintendente e dice: per motivi di sicurezza qui non possiamo fare. Sulle soprintendenze vi potrei raccontare romanzi. Questo è, quindi, gentilezza, ragazzi, gentilezza, tradurre i divieti in positivo, responsabilizzare le persone, cioè il non toccare. Se tu responsabilizzi i visitatori dicendo: questa è un'opera fragile, aiutateci, è bello mantenerla tutti insieme. È diverso da dire non toccare, perché sennò viene applicato il decreto, numero, legge, articolo. In condivisione, cioè anche questo, è una chiaro. Responsabilità condivisa. Assolutamente, dato che il patrimonio dovrebbe essere di tutti. Questo è il modo in cui i musei vanno vissuti, con libertà, con un rispetto che deve essere garantito. Ma viene garantito con le, quanto più libertà mi dai. Vi faccio l'ultimo esempio: a Chieti, al Museo Archeologico, è stato direttore per tantissimi anni Giovanni Scichilone, che è stato un mio professore. C'erano delle monetine piccole, piccole, piccole in un espositore con una rastrelliera con tutte le lenti di ingrandimento. Per 20 anni queste lenti di ingrandimento sono state lì, quindi tu le prendevi, guardavi le monetine e le riponevi. Quando è cambiata la direzione, il primo atto del nuovo direttore, chissà perché, è stato mettere delle catenelle alle lenti di ingrandimento, perché sennò le rubano. In 20 anni non erano mai state rubate. Quando hanno messo le catenelle, la prima settimana ne sono sparite 2. Quindi attenzione a una severità gratuita. Piccola, nel senso, come lo facciano a scoprirli? Vedi, è un buco, io sono i piedi. È un buco, come lo faccio? Al museo è un attimo che non c'è il custode, spezzi la catenella e via. Però il divieto fa venire il prurito alle mani, sì, ti crea proprio la voglia di infrangerlo. È facile per me, sì. Esatto. Allora, tutto questo per me si traduce con una grande parola, una parola chiave, che è l'empatia. Musei sensibili sono musei empatici. Ora, questo è un caso, proprio esiste l'Empathy Museum, che è un format che viene portato per il mondo, è itinerante, e viene portato nelle piazze oppure in luoghi esistenti, quindi al chiuso, e somiglia a una grandissima scatola di scarpe, dove tu puoi trovare all'interno scatole di scarpe che tu scegli e le indossi. Puoi decidere di indossare scarpe della tua misura, o più strette o più larghe, e hai per 20 minuti, mezz'ora, nelle cuffie, la storia delle persone proprietarie di quelle scarpe. Quindi tu puoi camminare, sederti con le scarpe degli altri, quindi puoi, come dire, metterti nei panni, quella è l'empatia, mettersi nei panni degli altri. Infatti si chiama A Mile in My Shoes, la mostra chiave dell'Empathy Museum, e ti puoi trovare a indossare le scarpe di un operaio, di una casalinga, di un insegnante, di una prostituta, di un migrante, di un rifugiato, categorie di persone più variabili, e questa cosa innesca proprio l'empatia. Quindi anche qui un museo che non è un museo, cioè è un museo pop-up che sbuca in una piazza e poi scompare, però innesca delle pratiche museali. Le human libraries vanno nella stessa direzione, sono biblioteche dove tu non scegli un libro, ma scegli una persona e la puoi ascoltare per un tot tempo, e quindi pratiche di empatia. Don't judge a book by its cover. Allora, ecco la nostra signora da tenere sempre con noi quando progettiamo. Dunque, sono le 12:02, volete fare 5 minuti di pausa? Come siete messi? Siete sul pezzo e continuiamo? Sì. Grandi, un applauso a voi. Beh, siete belli carichi, mi fa piacere. Quindi passiamo allora alla seconda parte dei nostri musei. Allora, abbiamo visto dei nostri musei sensibili. Abbiamo visto questi musei molto sfaccettati che hanno molta attenzione per l'uomo. Cosa vedete qui? L'Aris 501. Bravissima, grande esperto, sono proprio loro. Quindi sono dei jeans. Ma cosa cambia se li vedete qui? O li vedete qui? Di là mi aspetto un racconto, qua magari di provarli e comprarli. Un racconto, quindi. Sono lo stesso oggetto, quindi messo in un negozio, vetrine di Via del Corso, e in una teca di un museo. Magari per avere una storia, quelli no, cioè senza appunto... Se l'avranno la storia o determiniamo noi la loro storia? Quindi qui tu dici entro, compro, me li provo, quindi c'è un, come dire, anche un mercato in cui con un costo, con un prezzo determinato dal mercato, io mi porto a casa un oggetto, i jeans. Prima differenza lì se li trovo al museo con un costo, col costo del biglietto non mi porto a casa nulla, mi porto un'esperienza intangibile. Questa è un'altra delle forme che allontana le persone dai musei. Se io va, il vero antagonista del museo oggi è il centro commerciale, cioè se io vado lì spendo il mio tempo e i miei soldi, porto a casa qualcosa. Al museo devo accettare questo patto che mi porto a casa un'esperienza intangibile, non misurabile, quindi se ci sto bene, se no posso decidere, come dire, non obbligheremo nessuno ad andare nei musei, questo è fondamentale. Ma la vera differenza cos'è? Il negozio è un luogo di presentazione, la vetrina di un negozio, presento il prodotto. Al museo il prodotto, chiamiamolo prodotto perché è un jeans Levi's fatto di produzione industriale, non è presentato, ma rappresenta. Il museo è un luogo di rappresentazione. Questo è quello che dovete sempre tenere in mente, perché da ciò derivano una serie di conseguenze. Se è un luogo di rappresentazione, ci deve essere dietro una interpretazione. In questo caso i jeans al museo perché possono stare lì? Possono raccontare la storia della nascita del jeans e della standardizzazione della moda, possono raccontare la storia degli operai per cui sono stati creati i jeans, no? Perché era un abito da lavoro resistente. Possono raccontare la storia del... La presa in posizione, perché non so dove sono fabbricati, potrebbe anche essere il simbolo di una schiavitù se venissero fabbricati in un paese dove non vengono rispettati, ne so, salari, dignità umana. Esatto. Sono i jeans, indossare la James Dean in gioventù brutale. Benissimo. Ecco, voi state facendo un'importante operazione di interpretazione e state scegliendo una narrazione piuttosto che un'altra. Cosa emerge da questo? Che ogni interpretazione è individuale, personale, frutto del periodo storico, senz'altro, frutto della temperie culturale, politica, sociale, frutto dell'ideologia. E da qui cosa impariamo? Che non esistono musei neutrali. Che i musei non sono nati neutrali, i musei, lo ribadiamo, sono nati per giustificare una ideologia di potere dell'Occidente, e anche se espongono un paio di jeans, che sembrano la frivolezza assoluta, non sono neutrali. La mostra sulla Nutella poteva raccontare tante storie. Poteva raccontare il successo di un'azienda come la Ferrero, quindi anche il successo di un uomo, l'epica di un uomo, il signor Ferrero, ma può raccontare anche gli aspetti della salute legati al consumo di sostanze industriali zuccherate. Chiaramente non lo fa se è la Nutella a concepire la mostra, a sponsorizzare la mostra. La storia dell'ansia, non so. Esatto, il cinema, il cioccolato, cioè possiamo, ogni oggetto si presta a mille narrazioni e interpretazioni possibili. Ma se quindi queste interpretazioni ognuno ha la propria e i musei non sono neutrali, come ne usciamo? Tentando una certa responsabilità, cioè tentando, vi ricordate che il museo, la definizione di museo ICOM dice che il museo deve operare in modo professionale ed etico. Questa parola che vuol dire? Questa è una parola, anche questa, no? Campo minato, cioè l'etica di chi? Oggi più che mai ci rendiamo conto che la mia etica non è l'etica del signore che passa adesso fuori, né della politica mainstream in questo momento. Allora, responsabile vuol dire un museo consapevole di quello che sta raccontando, delle pratiche, delle politiche che sta attuando. E per me un museo sensibile oggi è chiamato a essere un museo partecipato. Allora, non vuol dire che la figura esiste ancora, la figura del curatore, di chi ha studiato, dell'esperto, per carità, sì. Non dobbiamo, come dire, distruggere quello che abbiamo vissuto, la nostra storia, ma includere visioni plurali è importante, e non farci portatori di ideologie uniche. Perciò andiamo indietro negli anni 60 e vi racconto una storia che è tra le mie preferite di tutta la storia della museologia. Allora, qui ci troviamo a Washington DC. Questo è il quartiere Anacostia. Anacostia era il quartiere più periferico, era il Bronx di Washington, abitato per lo più dalla comunità afroamericana, dove le case erano sostanzialmente delle catapecchie, non c'erano servizi igienici, c'era un grande problema di topi, c'era la disoccupazione, un problema altissimo di droga. La Smithsonian Institution, che è la più grande istituzione museale degli Stati Uniti, oggi contempla 21 tra i più grandi musei negli Stati Uniti, decide di piazzare un avamposto lì e adotta questo ex cinema abbandonato. Quindi decide che questo ex cinema diventerà un museo. È chiaro subito per tutti che in questo museo non si potevano appendere quadri alle pareti, non aveva senso per quella comunità, per quel target. Per cui cosa fa lo staff dello Smithsonian? Decide di chiamare in assemblea tutti i gruppi possibili di Anacostia, quindi gruppi scolastici, assemblee di condominio, la polizia, gruppi religiosi, le parrocchie, comunità di giovani. Cosa emerge? Non si vuole fare subito un museo, ma si comincia con un esperimento, una prima mostra, che si chiama The Rat, Man's Invited Affliction, una mostra sui topi negli anni 60. Immaginate, ovviamente dirompente, una mostra dove nelle vetrine non c'erano opere d'arte ma c'erano i topi, dove le persone potevano osservare il comportamento di questi animaletti, magari buttando i loro cibi in modo sbagliato, buttando i rifiuti in un posto piuttosto che un altro. Quindi osservavano le conseguenze dei loro comportamenti, ed era una mostra totalmente, quindi in questo caso sì, didattica, cioè per sensibilizzare le persone al problema. La seconda mostra invece si chiama This Thing Called Jazz, perché è una mostra dedicata al jazz, quindi è una mostra totalmente diversa da quella di topi, che racconta una delle espressioni culturali di maggiore orgoglio della comunità afroamericana, quindi un elemento di forte identità. Purtroppo non ci sono immagini invece sul web di questa. E il mitico direttore John Kinnard nel 1971 va a Grenoble, in questo altrettanto mitico convegno che si chiamava Il Museo a Servizio dell'Uomo, siamo negli anni 70, e presenta questa Anacostia Neighborhood Museum, quindi è il primo museo di quartiere del mondo, e pronuncia questa frase che entrerà in tutti i manuali di museologia, che è: la comunità, la popolazione parla, dialoga, il museo è l'orecchio in ascolto. È una frase poetica naturalmente, però è una pratica politica che Anacostia Museum continua a perseguire. Anacostia è un museo nato quindi dal basso, da una comunità poverissima, che però ha fatto scuola, è diventata un modello di attivismo politico possibile a beneficio di una comunità non piccola, perché poi ne beneficia una comunità ovviamente larga. Allora, qui non so, controlliamo anche l'orario. Sì, c'è un piccolo video se vi va. Adesso il museo non si chiama più Neighborhood Museum, ma Community Museum. Continuano a fare, poi hanno fatto mostre sull'AIDS, sull'alimentazione per i bambini, sulle droghe, sulle donne, e continua, come vedete, a fare delle mostre molto attiviste. Allora, qui no. Come faccio ad andare? Ah, devo fare ESC. Volevo copiare questo. Ok, sì. Devi fare non con Ctrl C ma con comando C. Hai ragione. Che siamo nel magico mondo. No, di... ero nel mondo di... Posso farlo sì. Dove? Sì, prendi una tab, sì. Tipo questa della mia vostra, perfetta, così la cancelli, ok? E la fai qua su. Ctrl, no, comando. Devi prima fare Ctrl, comando C e poi, ok, questo è il sito, c'è il video. Sì. C'è un piccolo video che voglio mostrarvi, così per farvi vedere come adesso è, come si presenta al mondo. L'Anacostia Community Museum. Purtroppo non è su YouTube, quindi bisogna passare dal sito. Per fortuna non è su YouTube. Anche questo è c'ha la ragione per cui non sta su YouTube. Hai proprio ragione. Hello place. Tucked away in a store in Anacostia. It's telling a story. People, place, and future still being written. This is a place for seekers. People who see the world differently and know history, art, and the human body that will make it go around. This is a place. This is a place of action, a safe space where great minds go to learn, build, and launch strategies that change minds, policies, and lives for the better. This is a place of pride, pride in the heritage, ancestors, and neighborhoods that make us all who we are. This is a home, sitting on a hill and living in the hearts of many. A home of true connection and inspiration. Travels far beyond our walls. A home for love, big ideas, and people. This is us. This is the Anacostia Community Museum. Powered by the people. Powered by the people. Allora, qui torniamo. Dov'è la mia presentazione? Quelle sono tab, mi sa che deve andare su Keynote. Qualcuno sa qual è l'icona di Keynote? Io non ho idea. Qualche lista? Se torniamo giù da qui, le Twitch? No. È quella blu, quella blu LG. A spezzo sinistra, qua. Questa, grazie. Voilà, grazie. Questi qui sì che siamo dei boomer. Sei tornata sul video. Sono tornata sul video, perché? Rimetti il leggio. Questa è la presentazione. Sì, perché è più piccola, quindi è dentro. Ah, è qui, è qui. Vai su riproduci. Voilà, ci siamo. Quindi questa è la storia dello Smithsonian. Siamo appunto negli anni 70, la cosiddetta museologia della liberazione, la nouvelle museologie, dove i musei sono molto felici di applicare, di scaldare il loro attivismo, E i musei diventano strumento di consapevolezza, di presa di coscienza, e quindi sono, iniziano a orientarsi verso la comunità. È chiaro che queste istanze vengono da luoghi come gli Stati Uniti, dove la storia museale era meno, come dire, dove non avevano a che fare con collezioni smisurate che sono quelle che noi ci portiamo sul groppone, nel bene e nel male. Quindi c'era anche molta più libertà di, come dire, loro dicono address the legacies, cioè di attivare politiche anche fregandosene di non mettere in cornice quadri del Settecento o opere etrusche, greche, eccetera. E sono gli anni degli ecomusei. Ne avete già parlato con Maria Elena? No. Gli ecomusei nascono in questo contesto politico, anche qui orientati verso la comunità. Sono musei di solito all'aperto, parzialmente all'aperto, musei diffusi sul territorio, fondati da Georges-Henri Rivière e Hugh de Varenne. E questo è il classico, diciamo, la definizione di ecomuseo: un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura del suo territorio. Sembrano parolone, ma in realtà sono molto facili se, per esempio, vi racconto la storia di Skansen. Skansen non è un ecomuseo, è un museo nato addirittura alla fine dell'Ottocento, viene considerato il primo museo open air della storia. Siamo vicino a Stoccolma e chiaramente in Svezia c'è un rapporto tra l'uomo, la natura e la cultura molto stretto. Questo è un museo che, diciamo, si musealizzano dei villaggi che esistono già, in parte si scenografano i villaggi, quindi si costruiscono le casette tipiche dei villaggi lapponi. Si mettono in scena storielle di vita contadina, puoi andare lì a vedere le signore che fanno il pane, quelle che mungono il latte, quindi è tutto molto dorato, molto, come dire, tu osservi una realtà abbastanza edulcorata di usi e costumi locali, quindi ha più a che fare con il folklore. Però questa esperienza in realtà insegna agli svedesi, evidentemente, perché nel 1981, quindi anni 80, a un certo punto si decide di costruire una centrale idroelettrica tra i villaggi lapponi e succede il parapiglia, perché ovviamente si grida allo scandalo, i lapponi non ci stanno. Ed è sulla base, sulla scorta dell'esperienza di Skansen, decidono di attuare una protesta un po' singolare. Come protestano? Costruendo un museo. Proprio come il MAM. Come si protesta nel migliore dei modi? Costruiscono un museo tra i villaggi lapponi, ma decidono di non alterare nulla, quindi non scenografano nulla, ma costruiscono solo i percorsi tra le casette già esistenti, i villaggi già esistenti, in modo che le persone possano andare a conoscere effettivamente la vita reale delle persone. Quindi non c'è nessuno che la mattina timbra il cartellino, si veste da lappone e inscena qualcosa, la sua vita quotidiana, ma le persone vanno a conoscere gli abitanti che musealizzano se stessi con le loro tensioni sociali, quindi si raccontano nell'assoluta verità della loro vita reale. E facciamo un salto temporale, appunto, qui non vi spaventi troppo testo, non voglio fare lo stesso errore dei musei che tanto detestiamo, però, diciamo, da tutto questo contesto in cui le persone sentono la necessità, la voglia di partecipare alla vita dei musei, nasce, dopo anche qui tante negoziazioni, questa convenzione quadro del Consiglio d'Europa. totalmente rivoluzionaria, convenzione di Faro perché è stata firmata a Faro in Portogallo, che parla del diritto all'eredità culturale che inerisce il diritto a partecipare alla vita culturale. Questo non era mai stato scritto effettivamente a livello legale da nessuna parte e quindi parla di comunità di patrimonio. Chi sono queste comunità di patrimonio? Chi siamo le comunità di patrimonio? È una comunità che riconosce un valore determinato attorno a una cosa, un fatto, un contesto, un oggetto determinato. Anche voi potete essere una comunità di patrimonio. L'altro giorno facevamo l'esempio di quella zona assolutamente ignota e negletta in tutta la città, che è una specie di favela che si chiama la Cerquetta, che sta poco fuori di Giugiada e che è abitata da tutte le maestranze multiculturali che lavorano nei vari centri. E il satellite. Allora, c'è stata un'associazione culturale qualche tempo fa, poco dopo la pandemia, che costruì un percorso di visite a casa di queste persone che aprivano i bauli e ti raccontavano la storia della loro migrazione in Italia e della loro successiva riuscita o non riuscita integrazione. Quindi quello che erano noi, per esempio, con Giochini, una specie di buco nero, cioè noi non vogliamo vedere cosa succede nel mondo dei prolet che lavorano da noi, certo, visione tipica di Borgiata. Non so se avete presente il famoso sketch di Guzzanti con le signore di Borgiata che si lamentano, credo che siano i canti di Borgiata. Quello è un po' il clima culturale da me, e invece con questa associazione culturale riuscirò a creare secondo me una comunità di patrimonio, che erano le vite di queste storie, di queste persone, il loro tentativo di integrarsi in un luogo che era un non luogo, la Cerquetta. Sì. Adesso tutto sommato vuole vedere la Cerquetta e dice qui ci sono delle... Hai cambiato il tuo pensiero e il tuo approccio critico nei confronti di questa piccola comunità, perché? Perché sei entrato nelle loro scarpe, cioè è Empathy Museum, è esattamente quello. Conoscere le cose non ci fa avere paura, non ci fa tenere la distanza, è l'antidoto al razzismo conoscere l'altro da sé. Quindi questa convenzione di Faro dice: tutti abbiamo diritto a trarre beneficio dall'eredità culturale, heritage, e abbiamo la responsabilità di rispettare sia la nostra che la altrui eredità culturale. Ora, questa frase ha generato grosse crisi. Io ho segnato le due date non per nozionismo, ma perché è fondamentale, perché raccontano una storia. Guardate quando è stata emanata la convenzione, nel 2005, e quando è stata approvata in Italia dalla Camera. Nel 2020 questa convenzione è stata in discussione alla Camera e al Senato per tutti quegli anni, perché i governi, perché ne sono passati, avevano paura di ratificare questa convenzione, perché la responsabilità di rispettare l'altrui eredità culturale genera paure che generano a loro volta mostri come questi. Non so se vi ricordate, questo è stato un caso eclatante. Quando è venuto Rouhani, il presidente dell'Iran, in Italia in visita, un abilissimo e solerte funzionario dei Musei Capitolini ha pensato bene di coprire le statue dei nudi. Questo è il 2016. Cosa che anche durante il fascismo fu fatta con la famosa foglia di fico, no? Le foglie di fico coprivano per non urtare le sensibilità delle signore, dei bambini. Qui quindi arriva una persona di religione musulmana in Italia, noi obliteriamo e censuriamo il nostro patrimonio. Allora, cosa vuol dire rispettare il patrimonio degli altri? Dov'è il confine? Per questo sono passati 15 anni prima di attivare la Convenzione di Faro in Italia, che di fatto dalla comunità museale, culturale, dei progettisti culturali era già introiettata. Cioè, noi quando abbiamo studiato la Convenzione di Faro nel 2005, ce la siamo studiata e l'abbiamo salutata con molto favore, è chiaro che l'abbiamo introiettata nelle nostre pratiche. Non serve che ci sia una firma della Camera dei Deputati. Eppure questo racconta molto di un paese. 2018. L'avete visto? Ok, allora superiamo questo, però ecco, rientra in questo. Lui non l'ha visto, ecco, lui non sa la barzelletta. Questo è Alessandro Greco, che ovviamente sappiamo ha aperto il museo egizio a una rivoluzione totale politica, proprio frutto di pensiero decoloniale, nel senso abbiamo questa collezione egizia sterminata, facciamone un ponte tra le culture, cioè usiamola per innescare dialogo, per innescare processi pluralistici, eccetera eccetera. E qui avete visto questo video, quindi sì. Ok, perché giusto, mi sembra sacrosanto. Qui uno dei progetti si chiamava Fortunato chi parla arabo, che ospitava gratuitamente le persone che parlassero arabo, quindi ovviamente era un progetto dedicato alle nuove generazioni, ai nuovi cittadini di Torino e non solo, ed è stato organizzato un vero e proprio picchetto da parte di Meloni, che all'epoca era semplicemente la GIT prop del suo partito, e Greco risponde in maniera esemplare, elegantissima, meravigliosa, ma vedrai il video in un secondo momento. No, vabbè, ma è nel senso, cioè, ma non è così. Però questa cosa, come vedete, è continuata fino al 2023. Alessandro Greco è continuato a essere accusato di essere un direttore di sinistra. Ma chi mi ricordavo Christian Greco? Christian Greco, scusate, Alessandro Greco è il presentatore. No, certo che Christian, povero, mi perdoni. Quindi è stato sempre accusato di essere ideologico in senso negativo, di aver politicizzato in modo razzista al contrario. Cioè Meloni in quel video accusa Greco e il museo di essere razzista contro gli italiani, di escluderli. Oh, vabbè, qui diciamo questa è un'esperienza personale, quindi un po', diciamo, dato che non ho portato esperienze personali. Del macroasilo avete parlato tanto stamattina, ma ovviamente se avete altre domande e curiosità, vi invito a guardare il sito, che è ancora in piedi, ci sono tantissime cose su quell'anno. Sì, tra cui convegni che riflettono sul museo, sul macroasilo, quelli sono molto densi e molto interessanti. Questo era un mio progetto dell'anno scorso, però per dire che i musei ci danno la possibilità di affrontare le urgenze della contemporaneità. Questo era un museo, abbiamo occupato 5 musei tra i più grandi di Roma parlando di acqua e di cambiamento climatico con i Water Talks. Abbiamo fatto parlare le collezioni museali di cambiamento climatico, quindi rileggere gli oggetti tradizionalmente chiusi in vetrine o esposti alle pareti, li abbiamo letti sotto lenti della contemporaneità. E questo è possibile, appunto, e ci aiuta Claire Bishop, che è una museologa che ha scritto questo librettino molto importante che si chiama Radical Museology, in cui lei dice: che cos'è un museo contemporaneo? Non è un museo che necessariamente espone arte contemporanea, ma è un museo che adotta pratiche contemporanee, che affonda le sue radici nelle politiche contemporanee. Lei questo modo lo chiama contemporaneità dialettica, ossia un museo che alimenta il dissenso creativo, alimenta il senso critico e la vostra possibilità di entrare al museo e dire non sono d'accordo, io la penso in modo diverso. E qui vedi che un po' io che ci metto ore a spostare le freccine al centro, poi lo passi al Mac. Questo mi causa dei disagi profondi. Dove doveva stare la freccina? Esattamente al centro. Ah, vabbè. Sono cose millimetriche importanti. Da curatrice io impazzisco. E quindi che un museo contemporaneo che non caldeggia più la vecchia visione dello spettatore incantato davanti alle opere in una, come dire, un'esperienza auratica, ma visitatrici e visitatori che siano attivi, che siano vigili, che siano consapevoli, che siano critici e che possano dire non mi piace, non sono d'accordo, la mia idea è diversa, e che possano contribuire con il loro punto di vista ad accrescere la collezione tangibile o intangibile del museo stesso. Allora, non voglio, io sono radicale, ma non voglio sembrare, come dire, non voglio che appaia che vi stia dicendo che l'esperienza estetica, poetica, romantica del museo va abbandonata. No, cioè, nel senso, siamo liberi di innamorarci di un'opera e di avere un'esperienza totalmente intima, che tra l'altro è altrettanto politica, però è un grado possibile dei musei. Qui stiamo parlando di musei responsabili, politicamente responsabili e dunque attivi e radicali. Ieri abbiamo visto con Maria Elena un intervento di Fat Chen e quindi un po' si matcha molto, secondo me, questi due interventi così, così vicini, perché rispetto a classicamente siamo un po' inermi rispetto al museo, quindi con tutta una serie di situazioni di inferiorità, perché non tutti sanno tutto di tutto, e quindi questo accesso, soprattutto nostro, è un modo consapevole di mettersi al centro tanto quanto un'opera. Certamente, certo. Noi siamo figli di tradizioni museali e scolastiche, cioè questo investe tutto il campo della cultura e dell'educazione, il campo scientifico che ci è stato trasmesso nei secoli in modo uguale, in cui ci hanno insegnato che la bellezza, no? L'Italia è il paese della bellezza, è il patrimonio, è il petrolio dell'Italia. Quanta retorica è stata accompagnata in questo, no? L'arte contemporanea spesso viene rigettata perché non è portatrice di bellezza, perché l'arte contemporanea spesso non è consolatoria. Io sono la prima che vado al museo per consolarmi quando sono molto arrabbiata o quando sono infastidita. Per me è un luogo di grande consolazione, ma è come leggere un libro per un altro, vedere un film, ascoltare musica, no? Siamo liberi di commuoverci, però questa retorica della bellezza, quando non so se posso fare il nome perché sono registrata, ma uno dei più grandi docenti di storia dell'arte dell'Università Sapienza è venuto al MAM in visita, lui ha detto esperienza straordinaria, politicamente interessante, ma questo non è un luogo decoroso. E lì crolla. Perché sul fatto che non sia un luogo decoroso siamo tutti d'accordo, il problema è il ma. Qual è il tuo concetto di questa decoro, di bellezza? Allora, se per decoro intendiamo che ancora il sistema fognario non è a posto, che c'è freddo, eccetera, va bene, ma rapportando la felicità delle persone che vivono lì, che vogliono rimanere lì e che sono orgogliose di vivere lì, con insieme alle opere d'arte che rivestono la buccia di tutto questo frutto succosissimo, ma come ti viene in mente di pescare dal vocabolario la parola decoro? cioè una parola inappropriata, impropria. Stai perpetuando il tuo pensiero colonialista in cui tu che vivi al centro di Roma consideri decoro la strada pulita, la statua neoclassica bianca o l'opera d'arte da estasi auratica, mentre la maggior parte delle opere al MAM sono opere disturbanti, ma non disturbano i bambini che ci vivono, guarda caso. Allora vogliamo metterci nei panni degli altri e scardinare le nostre categorie mentali? Secondo me a questo serve un museo. Ma parliamo di parole. Ta-da! Cosa sono queste parole? Censurate da Malta. Yes. Scusa, censurate da l'amministrazione. Da Mr. Trump. Allora, Trump si è insediato il 20 gennaio. Pochi giorni dopo, uno dei suoi ordini è stato quello di epurare da tutte le istituzioni federali questo numero di parole. Cioè, nelle comunicazioni istituzionali pubbliche, quindi anche nei siti, sui newspapers, magazines, non si possono usare più queste parole. Non è un vero e proprio divieto, però fatto sta che queste parole sono state pubblicate. Ricordo un po' il film Brasil, no? Dove esatto. C'era questo funzionario che doveva togliere dalle pubblicazioni una serie di parole, e ogni giorno gli arrivava una nuova velina dal ministero. Le circolari, che esatto. Allora, chiaramente qui forse non vedete da lontano, ma ci sono parole come Covid, come gay, gender, utero, black, people of color, segregation, victim, non si può usare più, trauma, prostitute, minorities, migrant, c'è woman e women. Vabbè, sono troppe, black, bisexual, sono ideologi. Equity, le parole sono, raccontano molto. Ci sono un sacco di parole che iniziano con social, ma non c'è socialism che invece gli serve per accusare gli avversari. Se la sono dimenticata. No, gli serve. Cioè. Gli serve. Quest fetus, feminism aiuto. Queste parole, questa censura ha determinato. Io dico sempre mostri perché sono conseguenze effettivamente mostruose. Sul sito del Pentagono hanno tolto Enola Gay, perché gay non si può dire più. Peccato che Enola Gay fosse il cognome della madre di Enola, che è quello che ha sganciato la bomba su Hiroshima, cosa che invece di cui non bisogna vergognarsi. No, però queste parole non le usiamo, e se non le usiamo questo ha delle ricadute importantissime sul comparto, sul mondo scientifico, scolastico, di informazione. E le parole, lo sappiamo, ce l'hanno insegnato i sociolinguisti negli ultimi anni, formano il pensiero. Cosa hanno in comune queste parole? Ta-da! Allora, sapete che Trump sta facendo questa enorme campagna contro il wokeism. Cos'è il woke? Diritti umani. Praticamente. Woke significa sveglio. Woke è una parola che è nata effettivamente all'interno delle comunità afroamericane, soprattutto quando c'è stato il grande risveglio del Black Lives Matter, quando woke voleva dire siamo svegli, cioè era un appello a essere attenti alle criticità della contemporaneità, essere vigili, essere presenti. Ovviamente woke è stato la parola è stata politicizzata in senso negativo, era una parola positivissima, e adesso se hai a cuore il cambiamento climatico sei woke. Se sei femminista sei woke, se non dormi la notte perché i bambini sono massacrati in Palestina sei wokissimo. Se cambi il colore della pelle, se hai lo spirito non si muove. Per carità, se sei attento all'alimentazione, se sei eccessivamente politicamente corretto, walk. Se sei un attivista, walk, da mettere in carcere. Quando arrivo questa parola, molti pensavano alla padella, quella per fare il walk, senza la E, esatto, per saltare il riso. Ma anche se la usi, anche tu stai. C'è una cosa, certo, tra le parole, mi aveva spiegato questa mia amica clinica, che ha avuto un impatto brutale poi sulla comunità scientifica, tutto questo bando di parole, perché se proponi di avere fondi per una ricerca, se contiene una delle parole non hai fondi. Certo, ma questo ha delle conseguenze importantissime, perché, per dirne una, la medicina in Occidente si è fondata con sperimentazioni solo e studi sui maschi bianchi eteronormati di un'età in cui si è abbastanza in salute, quindi 30-40 anni. Quindi ha escluso, ora se dai le ricerche mediche escludiamo tutte queste parole, adesso che stavamo appena aprendo la medicina al corpo delle donne, al corpo delle donne nere, al corpo delle donne in menopausa, quindi aprendo categorie che non sono state affrontate nella ricerca medica, quindi questo, diciamo, non affligge solo il campo culturale, che è quello di cui ci stiamo occupando oggi, ma a cascata. Trump non contento, il 20 gennaio, quindi praticamente a poche ore dal suo insediamento, lo sapete, l'avete letto, lui ha emanato circa 100 ordini esecutivi. Uno era dedicato a Landing Racial and Wasteful Government Day Programs and Preferencing. Cosa sono i DEI? Sono i Diversity, Equity and Inclusion, dipartimenti o progetti di cui ovviamente musei, università, enti di ricerca si sono fatti portatori negli ultimi anni. Allora lui cosa dice? Durante l'amministrazione di Biden sono state perpetrati programmi illegali, immorali, di discriminazione, perché nascondendosi sotto queste parolone di diversità, equità e inclusione, praticamente hanno raccontato che gli Stati Uniti sono il paese più razzista della storia, che è un paese che ha ha costruito la sua felicità e la sua dignità sul razzismo, sul suprematismo che ha schiacciato gli altri. Non è vero, quindi ha danneggiato l'amministrazione Biden, ha danneggiato l'immagine degli Stati Uniti, noi adesso ce la dobbiamo riprendere, quindi adesso dobbiamo, con rispetto, dignità, attivare risorse sul Making America Great, sul famoso MAGA, no? Make America Great Again. E quindi adesso il direttore dell'ufficio del Management and Budget, quindi qui stiamo arrivando a parlare di fondi pubblici e di cosa può essere finanziato e cosa no, assistito da altri collaboratori, coordinerà la fine di tutti questi programmi discriminatori. Questo cosa comporta nella pratica? Che sono stati soppressi tutti i dipartimenti di inclusione, di diversità, di accoglienze varie dei musei. Prima conseguenza, soprattutto dello Smithsonian, che ovviamente aveva il suo fiore all'occhiello. Anche il MoMA ha dovuto cancellare, e hanno cancellato dai siti, i siti dei musei, che sono musei essi stessi, perché sono espansioni del museo fisico nel web, hanno dovuto cancellare interi dipartimenti. Allora, questo è un problema enorme. che sta affliggendo tutto il comparto culturale, non solo degli Stati Uniti, e non è finita qui, perché ha emanato un altro ordine esecutivo, forse ancora più grave, che vi ho un po', l'ho stampato perché è lungo, ma voglio leggervene una piccola parte perché siate consapevoli, perché quello che accade negli Stati Uniti non è lontano da noi, cioè lo sappiamo, non siamo al riparo assolutamente nel nostro contesto politico. Anche qui Trump dice, ordine esecutivo che si chiama ripristinare la verità e la, come dire, sanezza, l'aspetto sano della storia americana. Dice, nel corso dell'ultimo decennio gli americani hanno assistito a uno sforzo diffuso per riscrivere la storia della nostra nazione, sostituendo i fatti oggettivi con una narrazione distorta, guidata dall'ideologia, anziché dalla verità. Guidata dall'ideologia è vero, nel senso, appunto, l'abbiamo detto, nessuno di noi è neutrale. Questo movimento revisionista mira a sminuire gli straordinari successi degli Stati Uniti, dipingendo i principi fondanti e i traguardi storici della nazione in luce negativa, quindi diciamo tutta l'eredità americana di promozione della libertà, di diritti, di felicità umana, viene rappresentata come intrinsecamente razzista, sessista, oppressiva o irrimediabilmente difettosa. Quindi noi finora abbiamo operato per distruggere l'immagine degli Stati Uniti. Adesso quindi questo diffuso tentativo deve essere stoppato, vado avanti, e si appella direttamente alla Smithsonian Institution, che dice è stata una delle principali cause di danneggiamento dell'immagine degli Stati Uniti, che ha influenzato negli ultimi anni un'ideologia divisiva incentrata sulla razza. Per esempio, lo Smithsonian American Art Museum ospita oggi la mostra The Shape of Power, Stories of Race and American Sculpture, in cui afferma che la scultura è stata uno strumento potente nella promozione del razzismo scientifico. È vero, è verissimo, ma non dobbiamo affermarlo. Sostiene l'idea che la razza non sia una realtà biologica, ma una costruzione sociale, e dichiara che la razza è un'invenzione umana. Come osano dichiarare questi fatti? Poi c'è il National Museum of African American History and Culture, che dice addirittura che la famiglia nucleare e l'individualismo sono aspetti della cultura bianca, perché ovviamente, come dire, in Africa si vive insieme, non c'è la famiglia nucleare, non esiste, ma non lo puoi dire perché sei woke. Lo Smithsonian American Women's History Museum prevede di celebrare le imprese di atleti maschi che partecipano a sport femminili. Terribile. Quindi, insomma, tu dice non puoi. Il caso del voto sincronizzato. No, esatto. Si è creata una squadra maschile di voto sincronizzato. Sì, questo viene prima del voto sincronizzato, quindi figurati. Dice quindi, i musei della capitale e della nostra nazione devono essere luoghi dove si va per imparare, non per essere sottoposti a indottrinamento ideologico o narrazioni divisive che distorcono la nostra storia condivisa. E ripristineremo quindi lo Smithsonian Institution al suo giusto ruolo simbolico di ispirazione e grandezza americana, infondendo orgoglio nei cuori di tutti gli americani. Chi è stato eletto a controllare tutto ciò? Vance. Meglio che sempre. Il vicepresidente è incaricato di attuare quest'ordine esecutivo, ovviamente in collaborazione con un comitato che sarà fatto di persone altrettanto per bene come lui, e ovviamente dovranno anche monitorare i futuri stanziamenti per i musei. Dovranno vietare spese per mostre o programmi che degradano i valori condivisi americani, dividono gli americani sulla razza. Peccato che Trump sta deportando proprio su persone sulla ideologia della razza o ideologie incoerenti con la legge e la politica federale. E poi questo è fantastico, c'è un punto che dice celebrino, quindi vietati finanziamenti a programmi che celebrino le conquiste delle donne nel Museo di Storia delle Donne Americane e non riconoscano gli uomini come donne in alcun contesto all'interno del museo. Quindi questo è. E poi dice ripristinare la verità nella storia americana, e c'è un ultimo punto in cui dice che questo comitato dovrà anche monitorare, dovrà fare uno studio su tutte le sculture, i monumenti che dal 2020 sono stati statue, dice monumenti pubblici, memoriali, statue, targhe o simili, che sono stati rimossi o modificati per perpetuare una falsa ricostruzione della storia americana, minimizzandone in modo inappropriato i valori, eccetera, con ideologie partigiane improprie. Quindi vanno ripristinati questi monumenti, che magari sono dedicati a coloni, dittatori, come dire, sanguinari eroi della storia americana, e quindi devono essere, insomma, e bisogna invece piuttosto concentrarci sulla grandezza delle conquiste e dei progressi del popolo americano. Questo è il punto della storia in cui siamo. Naturalmente ICOM, che si fa portavoce della comunità internazionale dei musei, ha espresso preoccupazione per questi ordini, ma come dire, non avrà nessuna azione concreta ICOM rispetto a Trump, però qualcuno deve pur farlo. Cioè, secondo me la nostra responsabilità è rimanere vigili. E quindi fin qui, insomma, abbiamo visto che se un presidente degli Stati Uniti si preoccupa tanto dei musei, questa è la testimonianza del fatto che i musei non sono mai stati neutri, che i politici di turno lo hanno sempre saputo, i governanti, e che i musei hanno sempre innescato dialogo, creato pensiero critico, creato ponti tra le culture, tra le persone, e influenzato la storia del mondo da 200 anni a questa parte. Quindi mi dispiace concludere con questa nota, che però è la più attuale possibile, però noi ci proviamo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo 3 minuti. Non so se c'è, appunto, in questi 3 minuti qualcuno che ha ancora una domanda che gli è rimasta qua. A me ne sono rimaste molte per, diciamo, la forza delle cose di cui abbiamo parlato.